me è stato affidato il compito di parlare della ricezione del Concilio Tridentino nel Vaticano II. L'argomento presenta almeno due difficoltà, almeno due. In primo luogo, si tratta infatti di determinare in questo caso il senso esatto del termine ricezione. Si tratta infatti non solo delle singole dottrine del Tridentino che eventualmente sono state recepite nel Vaticano II, si tratta anche del senso globale dei due eventi conciliari. Questo senso globale va oltre anche quello che Iedin chiamava il tipo storico dei diversi concili, e che egli ravvisava soprattutto nella loro struttura, dal soggetto convocante ai partecipanti, alla particolare modalità di produzione dei documenti, al loro genere letterario, simboli, decreti, canoni, eccetera. Il senso globale racchiude piuttosto il significato storico dell'evento conciliare, la sua intenzione profonda nei confronti del proprio tempo e l'effettiva concretizzazione di questa intenzione in una serie di gesti, figure, documenti che permangono nel tempo e lo determinano. Da questo punto di vista, ad esempio, è indubbio che i grandi concili della Chiesa antica dopo Nicea hanno recepito Nicea non solo nel senso che ne hanno rafforzato la dottrina, ma anche in quello per cui hanno costituito una risposta omogenea a quella già data da Nicea. Una determinazione dottrinale ulteriore della fede proclamata a Nicea. A Costantinopoli, tanto per portare un esempio, nel 382, i vescovi potevano persino racchiudere tutto il significato della loro assemblea nella riproposizione, cito, della fede evangelica confermata dai 318 padri al Liceo di Bitinia. È questa la fede che deve essere approvata da voi, da noi e da quanti non alterano la parola della vera fede. Quando nel Vaticano II la Costituzione dei Verbi afferma di volere proporre la genuina dottrina della rivelazione e della sua trasmissione, conciliorum tridentini et vaticani primi in helens vestigis, restando attaccata alle tracce del Tridentino e del Vaticano I, in questo suo volere restare attaccata in erede alle orme dei concili passati, è perlomeno dubbio che si voglia dire esattamente la stessa cosa già affermata dai vescovi del Costantinopolitano. Certamente si afferma una continuità, ma questa non è semplice sviluppo di formule precedenti o completamento di esse, allo stesso modo in cui ad esempio a Costantinopoli si precisò la fede nicena. Tra il Tridentino, e forse ancora molto di più il discorso vale per il Vaticano I, da una parte, e il Vaticano II dall'altra, è difficile affermare una corrispondenza speculare dell'evento, non solo nell'ovvio senso che il contesto storico e gli argomenti trattati non sono più gli stessi, ma nella concezione stessa di quello che deve essere un concilio. Alcuni espressero durante la celebrazione del Vaticano II questa consapevolezza dicendo ad esempio che si chiudeva l'epoca della Controriforma. È stata citata anche l'altra formula, ecco, congedo da Trento. Come parlare in ogni caso di una recezione che vuole essere in continuità e tuttavia fa altro? La seconda difficoltà del nostro argomento deriva dallo stato delle fonti. Soprattutto per l'attività delle commissioni resta ancora un forte scavo da fare. Questo vuoto, con l'eccezione della prima sessione, non sarà colmato nemmeno dalla mia presente relazione, che quindi resterà imperfetta. Se poi ci sarà la pubblicazione delle forme, dei vari concili che Don Vedder ci ha promesso, e allora forse bisognerà rifare tutta la relazione. Ad ogni modo, io dividerò la mia relazione in una prima parte che prende in considerazione le interpretazioni che sono già state date del rapporto tra Tridentino e Vaticano II, quindi esaminerò l'atteggiamento di colui che convocò e volle il concilio, cioè di Papa Giovanni XXIII, quindi mi volgerò ai dibattiti conciliari, quindi guarderò i decreti conciliari e infine tirerò delle conclusioni. Allora, primo, interpretazioni. Non mancano prese di posizioni, a dir poco estemporanee, sul nostro argomento. Ma io qui mi limito a presentare quelle che ritengo invece le due più autorevoli, non solo per le persone che hanno espresso queste interpretazioni, ma per il peso intrinseco dei loro argomenti. Mi riferisco a Karl Barth e a Hubert Jelin. Karl Barth ha espresso il suo parere in un breve saggio inserito nel libretto che riporta la sua visita romana del settembre 1966 ad Linen Apostolorum, e solo in riferimento alla Costituzione sulla rivelazione dei Verbi. Egli dà una sua interpretazione della frase già da me citata, anzi, quella frase è il titolo del suo saggio, Conciliorum Tridentine di Vaticani I in Helles Vestigiis. E cito: non è certo per restare fermo alla loro dottrina, in Helles non può essere inteso in questo senso, che il concilio del XX secolo entra nelle tracce dei concili del XVI e del XIX secolo, ma per piantare, per così dire, il piede sinistro sul loro appoggio, immagino un po' alpinistica, e avanzare con il destro sulla linea da quelli indicata. Per progredire comunque, partendo da quelli, e creare così un'altra, nuova traccia, per presentare al tempo presente e al futuro un'altra, nuova forma della dottrina genuina. In altri termini, fine della citazione. In altri termini, il Vaticano II, nel suo rapporto con le dottrine dei due precedenti concili, non rimanda sostanzialmente ad essi, ma procede avanti a partire da essi. La valutazione di Barth veniva appoggiata su una acuta rilettura della Dei Verbum, che, senza omettere di cogliere, da un punto di vista decisamente protestante, le contraddizioni interne della Costituzione, soprattutto per quanto riguarda la concezione della tradizione, ne registrava tuttavia il chiaro progresso e il globale mutamento di orizzonte rispetto ai punti di partenza. Con parole nostre potremmo dire che la valutazione barthiana dei rapporti fra i due concili vede nel Tridentino la tappa di un cammino, non il bagaglio che deve essere trasferito tale e quale nella nuova stazione costituita dal Vaticano II. Diversa è la valutazione di Hubert Jelin. Egli si pronunciò esplicitamente sul nostro argomento con una comunicazione tenuta alla Reichsgemeinschaft für Forschung della Renania del Nord-Westfalia, e alla quale seguì un'ampia discussione dei partecipanti, tra i quali vanno almeno ricordati, per la qualità dei loro contributi, Ratzinger e Rahner. Jelin si appoggia sull'analisi dei decreti prodotti dal Vaticano II. Egli nota anzitutto come, a differenza del Tridentino e aderendo all'invito di Giovanni XXIII, il Vaticano II non abbia pronunciato alcuna condanna delle dottrine contrarie. Il nervo del Tridentino, invece, non sono i decreti espositivi, ma i canones che anatematizzano gli errori. Essi hanno la funzione di superare la precedente, i canoni del Tridentino, Theologische Unklarheit, e pongono il Tridentino nella tradizione di quasi tutti i concili precedenti, che iniziando da Nicea fissano e assicurano la dottrina della Chiesa condannando gli errori contrapposti. Il Vaticano II, sempre secondo Iedì, ha percorso una strada diversa. Esso ha sottolineato ciò che è comune, non ciò che separa dalle Chiese dell'Oriente e della Riforma. Di fronte alla tentazione di ravvisare in questo, tuttavia, una svolta copernicana, Iedì sottolinea ad esempio come il decreto dell'ecumenismo non rappresenta né una presa di distanza né una revisione dal Tridentino. Esso non rinnega il passato, ma dice ciò che nel secolo XVI era presente, anche se non veniva espresso. Il tempo sta, lo stato di cose è lo stesso, ma cambia la prospettiva e l'atteggiamento pratico. Lo stesso si deve affermare secondo Iedì, scorrendo gli altri decreti. Le affermazioni sono diverse, ma non in contrapposizione. Così la Costituzione sulla Rivelazione mantiene il Tridentino pari, pietatis, affetto e reverenzia, sia verso la scrittura che la tradizione. E se ha certamente approfondito il concetto di tradizione, non ha né svuotato di forza il corrispondente decreto del Tridentino, né lo ha interpretato in un senso determinato, ad esempio in quello di Geiselman. Mentre il decreto tridentino sul sacramento dell'ordine ha tenuto distinto il sacerdozio ordinato da quello universale, il decreto apostolica montuositate del Vaticano II fonda l'apostolato dei laici sulla loro partecipazione al sacerdozio di Cristo e sulla loro santificazione sacramentale, così come erano state articolate nella Costituzione della Chiesa. Il divieto tridentino delle lingue volgari durante la celebrazione della messa ha carattere puramente disciplinare e la Costituzione sulla liturgia del Vaticano II, se ha affidato alle conferenze episcopali il giudizio per l'introduzione delle lingue parlate in vaste parti delle celebrazioni, non ha tuttavia eliminato l'uso della lingua latina dalla liturgia occidentale. E sarebbe un nonsenso, a giudizio di Iedì, nell'epoca della unificazione planetaria, der einen Welt, rinunciare, cito, a un legame talmente prezioso dell'unità. Ometto altri passaggi dell'analisi di Iedì. Iedì non intende negare le indiscutibili tensioni esistenti tra i due concili, ma le addolcisce nella formula nessuna revisione, ma completamente. Il Concilio di Trento ebbe la funzione di mostrare che la Chiesa era capace di autentica riforma, respingendo l'accusa luterana di avere falsato la retta dottrina. La Chiesa doveva cioè dimostrare non solo che era capace di rinnovarsi a partire dalla propria convinzione di fede, ma che soprattutto nel suo vertice voleva anche farlo. È innegabile che la Curia resistette finché poté e tuttavia il compromesso del Cardinal Morone, realizzato nelle ultime tre sessioni, seppure riuscì a intaccare in linea di principio la maggioranza delle prerogative curiali, rafforzò di fatto la posizione dei vescovi nelle loro diocesi e servì a rinnovare la pastorale. Fu questo spirito del Concilio e non la sua lettera che determinò, dopo il destino dell'opera riformatrice di Trento. La riforma ebbe tuttavia le sue debolezze, continua Iedì, soprattutto quella di un nuovo centralismo ecclesiastico che si servì del Tridentino come di un guscio vuoto. Comunque, le nuove sfide dell'Ottocento e del nostro secolo non potevano essere superate dentro questo vecchio orizzonte centralistico, succeduto al Tridentino, e che il Vaticano I oltretutto aveva ulteriormente rafforzato. Il programma roncalliano dell'aggiornamento, che non vuole dire adattamento, dice Iedì, ma adeguare un diario o un registro alle variazioni man mano intervenute, venne quindi a proposito. Ma esso non è una novità di Papa Giovanni XXIII, già che era già iniziato con Pio XI e Pio XII. Iedì afferma a questo punto di non condividere la sopravvalutazione di Papa Giovanni e di voler piuttosto riportare la convocazione del Concilio alle sue dimensioni storiche. L'aggiornamento si manifesta soprattutto nella dichiarazione sulla libertà religiosa e in quelle sulle religioni non cristiane. La Caudium et Spes è, a dire di Adini, invece soprattutto un atto di buona volontà, ma nulla di più. In ogni caso, questi esempi dimostrano, cito, che il cambiamento delle forme della Chiesa Cattolica si verifica non attraverso una rottura con la tradizione mediante una rivoluzione, ma attraverso una riforma, un aggiornamento. Reformatio significa quindi un ritorno alla forma originaria, scrostamento di forme superate e non più corrispondenti per amore del contenuto, ricostruzione, nulla, nuova costruzione, un bau, nicht novi bau. Fine della citazione. La discussione seguita alla comunicazione e le ulteriori chiarificazioni di Edini in quell'occasione mostrano tuttavia come una preoccupazione soprattutto lo tormentava, il decorso post-conciliare. E qui egli riscontrava, cioè nella interpretazione che era stata data del Concilio fino a quel momento, siamo nel 1976, invece una rottura vera e propria con la tradizione della Chiesa. La sua interpretazione appare quindi come un tentativo volto, mentre al riparo il Concilio stesso dal post-Concilio. Ma così facendo, al di là della correttezza o meno della valutazione che gli Adini dava della riforma post-conciliare, rischiava di interrogare il Concilio stesso con una preoccupazione indebita. La sua interpretazione dell'aggiornamento infatti appare quantomeno riduttiva, anziché leggere sullo Zingarelli, al quale si riferisce, il significato del termine, avrebbe dovuto ad esempio cercare di cogliere il pensiero stesso di Papa Giovanni, almeno nella Gaudet Matre Ecclesiae, nella locuzione introduttoria del Concilio, vero e proprio manifesto del pensiero concalinale. Comunque, nella discussione sulla ricezione del Tridentino nel Vaticano II, un dato emerge come punto delicato, quello della comprensione del significato globale dei due eventi conciliari. Il metodo di Edini è proprio quello di mettere a fuoco questo aspetto della questione. Giovanni XXIII, secondo me. Il Concilio di Trento, fra tutti i concili del passato, era il più amato e il più conosciuto da Papa Roncalli, che aveva anche pubblicato una ponderosa opera sulla sua applicazione. Sono fatti noti. Al Concilio di Trento Papa Roncalli si rifarà spesso. Già nel giorno della incoronazione affiora il ricordo di Carlo Borromeo per il suo impegno nella diffusione dei decreti del Tridentino. Nell'udienza generale del 26 settembre 1959 ribadisce che il prossimo concilio vuole porsi sulla scia luminosa dei concili precedenti, a cominciare dal Concilio Vaticano e dal Concilio di Trento. Questi due motivi, richiamo ammirato alle figure, Borromeo, De Ribera, eccetera, che operarono per la diffusione della riforma tridentina e, dall'altra parte, collegamento del Vaticano II ai concili del passato e al Tridentino in particolare, ritornano spesso. E non è il caso di documentarvi in questa sera, come non manca il richiamo all'attualità del Tridentino. Così, rivolgendosi al clero, nella terza giornata del Sinodo Romano nel gennaio del 60, ricorda, cito, che il decreto del Tridentino circa la condotta del clero è sempre là, con la sua insistenza inesorabile, ma tanto significativa, preziosa e cara. Tutto quindi indurrebbe a pensare alla convinzione in Roncalli di una ripresa del Concilio del XVI secolo. Ma non è così. Parlando il 14 novembre del 1960 alle commissioni preparatorie, il Papa precisa già in maniera netta e, oserei dire, definitiva, con termini che resteranno sostanzialmente immutanti, il suo pensiero al riguardo. Dice infatti di essersi applicato allo studio dei precedenti concili e invita i presenti a questo lavoro di storica erudizione, come dice lui. Questa premessa serve tuttavia a introdurre una differenziazione netta che il Vaticano II deve rivestire rispetto ai concili del passato. Infatti, i concili del passato, cito, risposero prevalentemente a preoccupazioni di esattezza dottrinale. Nel secolo XVI la Costituzione della Chiesa era fundibus, fin dalle basi, compromessa, e a Trento tutto si dovette e si poté ristabilire sulle antiche basi, fede, culto, sacramenti, discipline. Tutto fu riportato a solido fondamento e in chiarissima luce. Nell'epoca moderna, più che un punto dell'altro di dottrina o di disciplina, ricorderete poi la stessa frase nella Gaudete di Mater Ecclesia, che convenga richiamare alle sorgenti pure della rivelazione e della tradizione, trattasi di rimettere in valore e in splendore la sostanza del pensare, del vivere umano e cristiano di cui la Chiesa è depositaria e maestra nei secoli. Fine della citazione. Qui il binomio tridentino di dottrina e disciplina, guardato con grande rispetto, viene tuttavia considerato compito del passato, non più attuale. Adesso, infatti, trattasi di rimettere in valore e splendore la sostanza del pensare e del vivere umano e cristiano. Il pensiero di Papa Roncalli va quindi colto proprio in questa dialettica tra grande attenzione, rispetto e studio da una parte del tridentino e storicizzazione, percezione della novità dei tempi e quindi della novità dei compiti del concilio attuale dall'altra. E questa la filigrana che permette di comprendere tante espressioni. Così, il 20 febbraio del 62, parlando alla quarta sessione della Commissione Centrale Preparatoria, con riferimento allo schema sui seminari, confessa di essere riandato al canone 18 della sessione 23esima del Concilio di Trento, cito, che fu primo e solenne avviamento alla vera ristorazione dell'ordine sacro nella Chiesa. Ma continua con l'attenzione alle statistiche recenti che rivelano una nuova situazione che occorre affrontare secondo le esigenze dei tempi. E nella lettera del segretario di Stato, Monsignor Pio Paschini, presidente del Pontificio Comitato di Scienze Storiche per il quarto centenario della chiusura del Concilio di Trento, ritorna la stessa insistenza sulla differenza delle condizioni storiche. La Gaudete Mater Ecclesiae non farà quindi che sancire solennemente quanto Papa Roncalli andava ripetendo da tempo. Il Punctum Sapiens, ripeto, il testo sarà tutti voi noto a memoria per il mondo di questo concilio, non è quindi la discussione di questo o quel tema della dottrina fondamentale della Chiesa, in ripetizione diffusa dell'insegnamento dei padri e dei teologi antichi e moderni, quale si suppone sempre ben presente e familiare allo spirito. Per questo non occorreva un concilio, ma dalla rinnovata, serena, tranquilla adesione a tutto l'insegnamento della Chiesa nella sua interezza e precisione, quale ancora splende negli atti conciliari da Trento al Vaticano I, lo spirito cristiano, cattolico, apostolico del mondo intero attende un balzo innanzi verso una penetrazione dottrinale, una penetrazione delle coscienze, in corrispondenza più perfetta di fedeltà all'autentica dottrina. Anche questa però studiata ed esposta attraverso le forme dell'indagine e della formulazione letteraria del pensiero moderno. Altra la sostanza dell'antica dottrina del depositum fidei, altra la formulazione del suo rivestimento. Ed è di questo che deve esistere. Con pazienza, se occorre, tenere gran conto, tutto misurando nelle forme e proporzioni di un magistero a carattere prevalentemente pastorale. Non ho citato la traduzione latina, che poi Papa Giovanni ha tradotto, smentirà in più riprese, ma il testo suo originale. Il testo verrà ripreso nelle disposizioni per l'intercessione, lette in aula conciliare il 6 dicembre del 1962, a chiusura della prima sessione, il padre era cioè perfettamente consapevole che questo rapporto creativo nei confronti della propria epoca storica dovesse essere il carattere distintivo del Vaticano II. Del resto, egli attribuiva alla disubbidienza curiale nei confronti di queste indicazioni il fallimento in aula conciliare del lavoro della Commissione Teologica Preparatoria. Già il 14 novembre, all'inizio del dibattito sullo schema delle fonti della Rivelazione, il Papa con grande lucidità annota nella sua agenda personale: è prevedibile l'avviarsi di qualche contrasto. Da una parte, la stesura, cioè dello schema preparatorio, non tenne conto delle precise intenzioni del Papa nei suoi discorsi ufficiali. Dall'altra, avevano già parlato 8 cardinali quel mattino, ben 8 cardinali misero in discredito il punto principale della proposta, cioè dello schema dei fonti di Rivelazione. Che il Signore ci assista e ci unisca. E la stessa nota ritorna poi il 21 novembre, di fatto, nella sua agenda. Quasi nella stessa legge. Al termine del dibattito, dopo il voto di rigetto dello schema, che non ottenne tuttavia la maggioranza dei 2/3 richiesta dal regolamento, il cardinale Jean ottiene di poter parlare privatamente con il Papa. Abbiamo questo brano preso dal diario del cardinale Leger, e questo gli dice con chiarezza che la maggioranza, espressasi nel voto di rifiuto dello schema, interpreta fedelmente il suo pensiero. Infatti il suo messaggio di apertura è stato abbastanza chiaro: se il Concilio di Trento e il Vaticano I avevano fissato l'oggetto di fede, ed è invece compito del Vaticano II presentare il messaggio cristiano al mondo moderno e a quello di domani. Non si trattava di elaborare un manuale, sono le parole di Leger, attenzione, ma porre le indicazioni, il testo dice Jean, di una scienza teologica, pastorale. È una nota del cardinale Leger, non sono parole di Papa Giovanni. A fronte della consapevolezza che Papa Roncalli allora aveva del rapporto con il Tridentino, l'atteggiamento di Paolo VI non si allontanerà dalla retorica ufficiale dei richiami ai concili passati. Nella lettera ad apostolici del 12 settembre 63, a Cardinale Serrano cita, è vero, la Gaudet Mater Ecclesia nel preciso passo sopra riportato, in cui questa delineava la novità del Vaticano II rispetto al Tridentino e al Vaticano I. Parlando il 4 dicembre dello stesso anno, alla missione pontificia per le celebrazioni del Concilio Tridentino, parla tuttavia genericamente dei possibili raffronti tra i due concili. Sembra poi smorzare le differenze del Vaticano II rispetto a Trento in un discorso al pellegrinaggio della diocesi di Trento venuta a Roma a conclusione delle celebrazioni centenarie del Tridentino. Cito: lo spirito del Concilio di Trento è la luce religiosa non solo per il lontano secolo XVI, ma lo è altresì per il nostro, perché lo spirito del Concilio di Trento riaccende e rianima quello del presente Concilio Vaticano, che a quello si collega e da quello prende le mosse per affrontare i vecchi e i nuovi problemi rimasti allora insoluti o insorti nel volgere dei tempi nuovi. Sono queste espressioni che potrebbero essere interpretate anche come presa di distanza dall'ermeneutica tridentina di Papa Roncalli. Più prudente, a me sembra, tuttavia, scriverli al registro della retorica ufficiale, senza scorgervi precise intenzioni. Ciò viene suggerito dalla rarità stessa dei riferimenti al rapporto tra il Vaticano II e il Tridentino in Paolo VI. Inoltre, come appare dall'enciclica Ecclesia Sua, Paolo VI è soprattutto concentrato sulla dottrina ecclesiologica del Vaticano II. Manca a lui quell'ampiezza di respiro che è propria della ispirazione roncalliana sul Concilio. E mentre il riferimento a Trento appare sfocato, cito, forte è l'affermazione del Vaticano II, cito, non è altro che una continuazione e un completamento del Vaticano I. I dibattiti. Terzo punto. Nella fase preparatoria non sembra dover registrare un grande interesse per il Concilio Tridentino. Certo, Oltre allo schema dei fondi di separazione ci sono schemi che fanno riferimento al Tridentino, ma mi sembrano abbastanza, cioè mi sembra che non sia questo un tema. Nella prima sessione, quella del 1900, nel primo periodo, quello del 1962, il riferimento al Tridentino ebbe due grossi luoghi di verifica: la discussione sullo schema liturgico e quello sullo schema delle fonti della rivelazione. Per quanto riguarda lo schema liturgico, i riferimenti appaiono tuttavia deboli. Infatti, le disposizioni del Tridentino, ricordate, quelle sulla revisione del messale del breviario, sull'uso del latino, sulla comunione sotto le due specie, sull'unzione degli infermi, con l'eccezione forse appunto dell'unzione degli infermi, riguardavano soprattutto disposizioni disciplinari e non appaiono decisive nella discussione. Diverso è il problema del rapporto tra scrittura e tradizione nella formula che aveva sancito il Tridentino nella quarta sessione dell'8 aprile 1546. E questo è l'unico punto del Tridentino che viene esplicitamente messo a fuoco nel Vaticano II. È impossibile qui rifare la storia del complesso dibattito che attraversa tutto il Vaticano II e i cui dati essenziali sono stati più volte ricostruiti. Per ragioni di tempo vi risparmio la lettura di tutti gli interventi su questo argomento che si ebbero nei vari periodi, nelle varie sessioni del Vaticano II. Io semplicemente riassumo proprio il risultato finale di questa discussione che comprende anche il testo definitivo del decreto. Il Vaticano II, a mio avviso, non dirime ultimamente la questione sulla interpretazione autentica del Tridentino nei confronti della diversa estensione materiale della tradizione rispetto alla scrittura. Ribadisce infatti con forza che, da un punto di vista soggettivo della nostra presa di coscienza, le convinzioni della Chiesa non si formano solo sulla base della scrittura e, soprattutto grazie all'influsso di idea che ne fa l'unico accordo possibile fra le varie tendenze, il Concilio eviterà formule che possano essere interpretate come una risoluzione definitiva della questione. Secondo, il Vaticano II respinge implicitamente il linguaggio post-tridentino e controversistico delle due fonti con una maggiore adesione letterale al linguaggio tridentino del Vangelo come unica fonte. Per ciò stesso recupera la trascendenza dell'evento salvifico rispetto alle testimonianze che esso stesso si suscita nella storia. Qui c'è un problema linguistico delicato, non dimentichiamo però che il Vaticano II sostituisce il termine evangelico del Tridentino con il termine revelatio. Non è, a mio avviso, un mutamento di poco conto. Però, in ogni caso, e per questo parlando della trascendenza dell'evento salvifico, in ogni caso distingue con chiarezza il Vaticano II l'evento salvifico dalle sue testimonianze. Terzo, non sembra tuttavia di poter affermare che soprattutto nella sua concezione del Tridentino il Vaticano II possa essere ricondotto nel Tridentino. Il tentativo fatto da Ratzinger in questo senso, soprattutto richiamandosi all'influsso della concezione del Cervini nella stesura del decreto Tridentino, deve essere ulteriormente verificato e approfondito. A me sembra tuttavia che la ripresa della dimensione soggettiva di crescita della tradizione vada nel Vaticano II collocata in un orizzonte estraneo al Tridentino, dove confluiscono sia la teologia romantico-idealista del primo Ottocento che la consapevolezza dell'approccio storico-critico moderno e contemporaneo alla scrittura. Scusatemi per questo limite severo imposto dal tempo a questa trattazione, che si riferisce appunto all'unico dibattito che ha preso come oggetto il Tridentino nel Vaticano II. A parte i dibattiti sullo schema liturgico e su quello che poi diverrà la Dei Verbum, non sembra dover registrare un interesse specifico durante il Concilio per il Tridentino. Occorre tuttavia notare come, sempre in occasione del dibattito sulle fonti, Quando i vescovi discutono sulla pastoralità della dottrina, perché di fatto la prima discussione sul De Fontibus è in primo luogo non già una discussione sulla rivelazione, ma sulla pastoralità della dottrina, ed è il grosso luogo di recezione della Gaudet Mater Ecclesia nel Concilio Vaticano II, dicevo, in occasione di questo dibattito, di fatto i padri mettono in discussione il modello esemplare di concilio che per essi era rappresentato dal Tridentino. Parecchi, nel tentativo di impedire la concezione pastorale del concilio proposta da Giovanni XXIII, si rifaranno alla distinzione operata dal Tridentino tra i decreti dottrinali veri e propri e quelli delle formazioni. Lo stesso dibattito sul decreto di istituzione sacerdotali, quella che poi diventerà la Optatum Totius, non suscita una vera e propria disamina in profondità del Tridentino. Non già che manchino i riferimenti formali, in primo luogo essi venivano da parte curiale. Il cardinal Pizzardo, in una lettera della Congregazione dei Seminari, in data 22 febbraio 63, scriveva: il Concilio di Trento ci ha lasciato una preziosa eredità, il Concilio Vaticano II avrà certamente il compito di tutelarla, consolidarla e accrescerla, poiché la Chiesa ad ogni svolta decisiva della storia umana, in ogni profondo travaglio sociale, sente il bisogno, cioè all'eredità del Tridentino, di adeguarvi la formazione del sogno. E sicuramente interpretava il desiderio di moltissimi quando, commemorando il quarto centenario della pubblicazione del decreto tridentino sui seminari, Monsignor Baldassare scriveva sull'Avvenire d'Italia: la migliore commemorazione del quarto centenario del decreto speriamo venga fatta da un decreto conciliare del Vaticano II. Poi, come dopo il decreto tridentino, i vescovi preoccupati da una questione di tanto momento si metteranno all'opera e incontreranno oggi come allora non poche difficoltà, ma come allora sorsero i seminari tridentini, oggi sorgeranno i seminari del Vaticano II. Vi risparmio altri interventi che tuttavia sono, mi sembra, abbastanza retorici, abbastanza marginali, non entrano nel merito delle scelte tridentine. E l'11 febbraio del 65, per concludere, nella nuova formulazione dello schema presentato da Monsignor Carraro, a sottolineare la continuità con il Tridentino, appariva un nuovo paragrafo conclusivo che resterà poi nella stesura definitiva, dove i padri dichiarano la loro intenzione di proseguire opus a concilio Tridentino in coatum. Ma, come dicevo, l'impressione globale resta quella di un riferimento retorico che di un preciso ripensamento. Così intendo per riferimento retorico, perché poi riuserò la categoria. Sono riferimenti di tipo estemporaneo, come il Concilio di Trento ha fatto questo, anche noi dobbiamo fare quest'altro. Ma forse molti vescovi non conoscevano nemmeno i decreti del Tridentino quando si riferivano in questo modo al Concilio di Trento. E mi astengo dal dare esemplificazioni di questo tipo di intervento. L'occasione invece di un riferimento più intrinseco al Tridentino fu offerta nel secondo periodo dalla discussione sullo schema di fatto del De Ecclesia. Il 3 ottobre del 1963 il cardinale Elcaro traeva tra l'altro dal canone 2 del decreto sulla penitenza del Tridentino l'argomento per respingere la dottrina dell'incorporazione alla Chiesa proposta dalla Mystici Corporis e ripresa da quello schema, e ribadire invece la dottrina tradizionale secondo cui è il battesimo, cito, che costituisce l'uomo persona nella Chiesa e lo incorpora ad essa in forza dello stesso carattere indelebile del sacramento, nonostante uno scisma, un'eresia o un'apostasia che possono solo diminuire la piena fruizione dei diritti e dei beni sociali. Il 7 ottobre successivo, il cardinal Bertrand, intervenendo sulla possibilità del diaconato stabile, si richiamava al Tridentino, dandone, a dire il vero, una esegesi abbastanza articolata. Infatti, dal fatto che il Tridentino riconosce la sacramentalità del diaconato e postula che i ministeri del diaconato siano soltanto prestati da coloro che sono stati insigniti di quest'ordine, ben conclude alla perfetta coerenza di un diaconato stabile con i decreti del Tridentino. Fu Monsignor Bettazzi, tuttavia, colui che maggiormente si appoggiò al Tridentino l'11 ottobre del 1963 per sostenere la dottrina secondo cui è in forza della stessa consacrazione episcopale che i vescovi partecipano alla giurisdizione universale su tutta la Chiesa e formano il corpo episcopale che, congiunto a Pietro, gode per diritto divino della potestà suprema su tutta la Chiesa. Qui evidentemente la mia esegesi differisce un po' da quella del collega Pesci. La presa di posizione del Bettazzi aveva lo scopo di mostrare che non si trattava di una invenzione gallicana. Per questo, dopo aver accennato la tradizione canonistica da Graziano al Concilio di Costanza, il Bettazzi prendeva le mosse dal Torre Cremata per soffermarsi soprattutto sul Tridentino, in cui si ricordavano le posizioni degli italiani Paleotti, della Rovere, Laureo, Nacchianti e dei due futuri papi, Urbano VII e Innocenzo IX, cioè rispettivamente del Castagna e del Facchinetti. Appunto per rimedire, no, la tradizionalità della concezione della collegialità e dell'episcopato che si voleva affermare adesso nel Vaticano II. Tranne ancora uno spunto offerto dalla discussione sull'accusa di delicidio fatta agli ebrei, il 29 settembre del 64 l'americano Leben, ausiliario di San Antonio, a nome dei vescovi americani, citava il Concilio di Trento, ma di fatto il Catechismo Romano, per affermare che secondo il Tridentino siamo tutti responsabili della morte di Cristo. Diceva, a parte questo spunto, l'altra occasione per un richiamo al Tridentino fu offerta dalla discussione sul decreto riguardante lo schema dei presbiteri. Anche qui prevalgono tuttavia quelli che ho chiamato interventi retorici. Così il 14 ottobre del 64 lo spagnolo González Martín chiede che come il seminario in Vaticano II suscita la creazione di istituti nei quali dopo alcuni anni di ministero i sacerdoti possono perfezionare la propria preparazione ascetica e spirituale. Nella fase successiva del dibattito, il 14 ottobre del 65, lo spagnolo Argaio Goicoechea chiede che sull'esempio del Concilio di Trento il Vaticano II delinei la sua concezione della fisionomia del sacerdote del mondo contemporaneo. Con più pertinenza e con maggiore conoscenza delle fonti, il 15 ottobre del 65 il cardinale Jäger notava come lo schema su presbiteri deve comporre un modello di vita raccogliendo i vari elementi dispersi nella moltitudine dei decreti tridentini. E ancora il 26 ottobre del 65 l'inglese Foley rimprovera lo schema presentato di tecere stranamente sulla cura d'anime, quasi che la vita del clero si limitasse alla messa e ai sacramenti. Ciò contrasta con il Tridentino che in tre lunghe tornate si occupò dell'argomento. Altre occasioni per richiamarsi al Tridentino non mancarono, ma appaiono decisamente marginali. Permettetemi di saltare. Un accenno infine in questo paragrafo dedicato ai dibattiti va fatto anche alla commemorazione solenne di Trento in occasione del quarto centenario della sua conclusione, il 4 dicembre 1963. La commemorazione in aula fu tenuta dal cardinale Urbani. Essa tuttavia rappresenta in qualche modo un'occasione perduta per riflettere sul rapporto fra i due concili. In filigrana potevano certo essere colti alcuni accenni. L'insistenza sul rifiuto del Tridentino di dirimere le questioni disputate tra le varie scuole teologiche, il linguaggio non scolastico ma ispirato ai padri e alla scrittura del Tridentino, il nesso tra dogma e disciplina, la critica del conciliarismo senza alcun riconoscimento per la responsabilità universale dei vescovi, che invece venivano tutti collocati da Urbani nel loro ufficio diocesano. Non si poteva quindi cogliere il tentativo di usare Trento, da parte di Urbani, in maniera da lasciare aperta la porta alle proposte sul tono pastorale, sul linguaggio, pastorale del concilio attuale, ma da chiuderla alle proposte più avanzate sulla collegialità. Cito, ponendo l'accento sull'ufficio pastorale del vescovo, il Concilio di Trento ha voluto affermare come esso sia il cardine della vita cristiana della diocesi e per essa di tutta la Chiesa. I poteri episcopali vengono rivendicati non a nome di un episcopalismo o di un concilialismo, che a Trento ebbero anzi la più clamorosa sconfitta, ma ad una sterile quanto ambiziosa rivalutazione di privilegi e competenze, ma in vista di una efficiente cura d'anima. Forse è ingeneroso comunque prestare intenzioni a un discorso che si mantenne su un tono celebrativo e che del resto non sembra aver avuto alcun influsso sul dibattito conciliare, a meno che non lo si voglia interpretare come una implicita risposta alle interpretazioni di Trento che invece avevano proposto nelle settimane immediatamente precedenti Lercaro, Defner e Bettazzi. Quarto punto, le decisioni. I riferimenti espressi al Tridentino nel testo stesso dei decreti del Vaticano II, nel testo, sono ben pochi, quattro in tutto. Lumen Gentium, Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, Optatum Totius, con una frequenza rispettiva a ciascuno. Ad alcuni di essi ho già accennato, come quelle della Dei Verbum e della Optatum Totius, gli altri due li ritroverò invece nella considerazione delle note apposte ai testi. I documenti che si rifanno al Tridentino nelle note per trovare una base delle affermazioni contenute nei testi sono cinque. Le costituzioni Sacrosanctum Concilium, Lumen Gentium, Dei Verbum e i decreti Christus Dominus e Presbyterorum Ordinis. Una rapidissima scorsa. Della Dei Verbum ho già parlato. La Lumen Gentium, che ha la rappresentanza più copiosa, 15 presenze su circa una trentina, cita una volta il decretum di Reformazione super lezione di predicazione della quinta sessione, assieme al canone 4 del decretum di Reformazione della sessione 24esima, e in assoluto, questi due sono in assoluto i decreti più citati, sono quelli che ribadiscono come compito precipuo del vescovo quello di annunciare, di predicare il Vangelo. Li ritroveremo in diversi documenti. A proposito del culto della comunione con i santi, vengono ripresi il decreto di invocazione e venerazione delle Divi Santorum, il decreto di giustificazione della sessione sesta e quello del purgatorio della sessione 25esima. Sempre nella Romagna, il decreto sul sacramento dell'ordine della sessione 23 viene citato per ribadire il triplice grado dell'ordine sacro, la dottrina che i presbiteri in forza del sacramento dell'ordine vengono consacrati per predicare il Vangelo, pascere i fedeli e celebrare il culto, la successione apostolica dei vescovi, il carattere indelebile e impresso con il sacramento dell'ordine, e infine il conferimento della grazia dell'ordine sacramentale mediante l'imposizione delle mani. Il decreto invece sul sacrificio della messa della sessione 22 viene ripreso tre volte per ribadire che il sacerdote perfeziona l'edificazione del corpo di Cristo mediante la celebrazione del sacrificio eucaristico, secondo, nella quale agisce in persona Cristi, ma è una citazione indebita, perché il Tridentino non parla del sacerdote che agisce in persona Cristi, ma semplicemente dell'unico sacerdote che agisce per il ministero dei sacerdoti. Mentre accanto al Tridentino si cita la Mediator Dei, e di fatto quella è la vera fonte della citazione, e non il Tridentino. Il decreto Christus Dominus, per ribadire la funzione di predicazione del Vangelo del Vescovo, riprende il ruolo del decreto che ho già citato, delle formazioni super lezione e quello del poi il capitolo 4 del decreto delle formazioni della sessione 24esima. E ancora questi decreti si ritrovano nella Presbyterorum Ordinis, la quale si richiama anche al decreto sul sacramento dell'ordine per affermare il potere dei presbiteri di offrire il sacrificio, di mettere i peccati, ma anche al divieto tridentino di usare dei redditi del ministero per aumentare le ricchezze della propria famiglia. La Sacrosanctum con un concilio, la prima in ordine di tempo, l'ultima che qui prende in considerazione, riprende il motivo presente nel decreto sul sacramento eucaristico come rappresentazio, attualizzazione della vittoria della morte di Cristo. Il decreto sul sacrificio eucaristico viene citato invece due volte, la prima per ribadire ancora, come già nella Presbyterorum Ordinis, che è sempre lo stesso Cristo che offre il sacrificio mediante il ministero dei sacerdoti, e la seconda per ricordare che la messa è anche sorgente di istruzione per il popolo. Una conclusione possiamo trarre. È il motivo della catechesi, della predicazione del Vangelo, sia per i vescovi che per i preti, che viene più ripreso globalmente nel Vaticano II dal Tridentino. C'è ancora un decreto per la celebrazione del sacramento del matrimonio, eccetera, che mi ha incuriosito perché dice che bisogna mantenere le lodevoli consuetudini della celebrazione del matrimonio eventualmente sorte nelle varie regioni. A che cosa si riferisca? Se questo c'entra con la discussione di stamattina sul decreto d'Amenzi, non so. Conclusione. L'ermeneutica dell'aggiornamento. Questa analisi, come ho detto, non può considerarsi completa. Ad essa fa difetto una più approfondita conoscenza del lavoro delle commissioni, anche se si può avanzare l'ipotesi che non dovrebbero risultarne, ecco, conseguenze tali da sconvolgere il panorama da me delineato. Ad esempio, per andare ai lavori delle commissioni nella prima sessione, nel primo periodo, i lavori della commissione mista creata da Papa Roncalli mostrano fin dall'inizio che i rapporti fra scrittura e tradizione descritti dal Tridentino vengono recepiti nella misura in cui essi non impediscono l'instaurarsi del nuovo clima di dialogo tra cattolici e protestanti per un verso, ma come siano anche insufficienti a integrare quella nuova concezione della tradizione interpretativa che sostanzialmente si riconduce alla scuola di Dubinga e a Newman nell'Ottocento, ma anche ai risultati dell'esegesi storica critica fatti proprio dai protestanti e più recentemente dai cattolici, soprattutto nel corso del Novecento. L'immagine di Bach del piede sinistro che si poggia sul Tridentino e del piede destro che va in avanti rende forse meglio dell'asfittico binomio continuità-rottura il senso di quello che è avvenuto nel Vaticano II. Ma a questa affermazione di ordine generale bisogna aggiungere anche alcune considerazioni più precise. Una vera e propria ermeneutica dei rapporti fra Tridentino e Vaticano II è propria solo, guardando le fonti, di Papa Roncalli. Sotto il suo impulso, in maniera non del tutto coerente, i padri del Vaticano II cercarono di acquisire la prospettiva della misericordia e dell'apertura ai segni dei tempi. Si delineò così a sufficienza quello che da più parti venne percepito come superamento della Controriforma. E questo non già in un senso tecnico, di delimitazione di una precisa epoca storica. Ha ragione Iedin quando afferma che in questo giudizio si tratta solo di uno slogan confuso, che la Controriforma si era conclusa nel Settecento, che già l'Ottocento aveva delineato un nuovo contesto storico, cose santissime. Ma è altrettanto vero che il clima di controversia e soprattutto di supremazia assoluta del criterio di certezza, tipico sì della Controriforma e dei pontefici, che egli vorrebbe addirittura come iniziatore della svolta del Vaticano II, ma per questo occorrerebbe mettere tra parentesi e dimenticare Romani Genis con la precisa polemica su questo punto verso la teologia del Resurs Mano di Pio XII. Questo invece è vero che sono un frutto del Vaticano II. E qui permettetemi una nota su questo tema della teologische Unklarheit che è apparso tra di noi anche nella prima giornata. Nei termini di Iedin, ripresi però da Lorz, si tratta del superamento della teologische Unklarheit nel Tridentino e che invece in qualche modo non viene, come dire, realizzato nel Vaticano II. Occorrerebbe tuttavia a questo proposito una discussione attenta, storico-teologica del fenomeno, per sapere se chiarezza e certezza, tipiche della teologia post-tridentina non ha come significato una riduzione della ricchezza della vita ecclesiale e dello stesso concetto di verità. È indubbio che nell'epoca della Controriforma, nella controversia, proprio quel sistema delle censure teologiche che è stato ricordato nel primo giorno non è diventato, non è stato elaborato in funzione della verità, ma dell'autorità della Chiesa, perché il sistema delle censure teologiche si rapporta all'autorità che le emana e al grado di affermazione dell'autorità, non è in funzione della profondità e della ricchezza del Vangelo. E questa tesi, credo, storiografica non è difesa da me, ma da un teologo e storico della teologia del tipo di Zern, il quale credo che non possa essere tacciato in questo senso di partigianeria. Allora il Vaticano II mette un piede nel Tridentino, molte volte in modo veloce, quasi sfiorando. Si tratta di quei riferimenti retorici a cui ho accennato, di quei riferimenti in cui il Tridentino appare come uno dei tanti dicta probanzia accanto ad altri monumenti della tradizione ecclesiastica per dimostrare la continuità di una dottrina. A volte in modo fermo, come nel recupero della prospettiva del Vangelo come unica fonte di ogni testimonianza della rivelazione di Dio agli uomini, come nei punti dogmatici centrali della dottrina cattolica dell'Eucaristia e del sacramento dell'ordine. Il passo che compie in avanti, tuttavia, non è così sicuro. Se deve dirsi ben uscito, ad esempio, nella Costituzione liturgica e nella Dei Verbum, non altrettanto deve dirsi nelle indicazioni sul ministero presbiterale. Certo, il Vaticano II raccolse, per così dire, le sparse membra, come desiderava ieri, della dottrina tridentina, articolando attorno ai tre motivi della predicazione, dell'Eucaristia e del pastore d'Agme un insieme di indicazioni pratiche. Ma queste a loro volta non sembrano perfettamente integrare proprio quella svolta nella considerazione ricca della storia come economia della salvezza che deve considerarsi uno dei tratti specifici del Vaticano II. Ed in questo senso il Vaticano II non riesce a costruire un modello convincente del ministero presbiterale. Raccoglie la crisi della cosiddetta identità del prete, esplosa nel secondo dopoguerra e lungo tutto il pontificato di Pio XII, e di cui il fenomeno dei preti operai è la spia più vistosa, senza darne tuttavia un'effettiva soluzione. Sempre in questo senso, volendo procedere oltre Trento, il Vaticano II non trovò nel contesto ecclesiale, spirituale e teologico, o almeno non ha trovato fino adesso gli spiriti capaci di delineare, con forza analoga ai grandi riformatori del clero della Controriforma, un modello plausibile di vita presbiterale. Gli uomini che prima e dopo Trento, dal Cristove a Bias de Lugo, a Pedro Soto, a Bartolomeo dei Matri, ai Barnabini, Fiatini, Gesuito, a Filippo Neri e a tanti altri, solo per citare, gettarono l'ossatura della spiritualità del clero post-tridentino, permisero che i centrali nodi dogmatico disciplinare della riforma del Concilio del secolo XVI creassero un modello storico che ha resistito sostanzialmente fino ai primi decenni del nostro secolo. Ma essi non hanno trovato i loro corrispondenti, almeno fino adesso, attorno al Vaticano II. La ripresa dogmatica di Trento sul clero, da questo punto di vista, è risultata sterile. E forse il motivo può ravvisarsi in quel punto che distingue, nella sua globalità, l'evento conciliare del Vaticano II rispetto al Concilio di Trento, la diversa considerazione della storia. È proprio questa che non riesce a integrarsi con il, modello tridentino riproposto adesso, e impedisce quindi il delinearsi di quella figura di presbitero che non sia in alternativa, ad esempio, alla scomparsa di una visione manichea dei valori mondani, all'emergere della nuova coscienza della donna, alla consapevolezza nuova del dinamismo comunitario. Ha perfettamente ragione Iadini quando afferma che la sfida di Trento consistette nella ricerca di una reformatio senza innovare nell'equilibrio dottrinale della Chiesa. Ma egli non coglie la differenza di questo modello rispetto al Vaticano II. preoccupato dei mesi e dei primi anni del post-concilio, resta bloccato dal tentativo di sottrarre la paternità del Vaticano II ai movimenti post-conciliari. Non voglio quindi che l'aggiornamento proposto da Papa Roncalli va oltre lo schema di continuità-rottura, proprio perché ricerca fuori dallo strumento, della misura dottrinale, disciplinare, un ringiovanimento della sostanza del cristianesimo. Con il Vaticano II, nella Gaudete Mater Ecclesia, viene proposto un modello diverso, perlomeno correttivo, di quel rapporto tra Chiesa e storia che Egidio da Viterbo aveva proposto alla Terenzio V e che ancora resiste fino al Vaticano I, cioè, secondo lui, homines per sacra in notari fas est, non sacra per homines. È legittimo e lecito cambiare gli uomini mediante le cose sacre, non è legittimo mutare le cose sacre mediante gli uomini, cioè mediante la storia. È vero, come giustamente ancora note Iedini, che ad esempio la Gaudium di Spes rappresenta forse un tentativo non riuscito, un gesto di buona volontà, ma non si può ignorare che in essa vive questa nuova visione e che sarebbe quindi miope considerarla puramente un gesto di buona volontà. Si tratta della visione accennata nel numero 44 di questa Costituzione, cito, com'è importante che per il mondo è esattamente il contrario della citazione di Egidio da Viterbo che vi ho detto prima, com'è importante per il mondo che esso riconosca la Chiesa quella realtà sociale della storia e suo fermento, così pure la Chiesa non ignora quanto essa abbia ricevuto dalla storia e dal suo sviluppo. La novità di un evento non è una caratteristica che possa essere costretta nella dialettica unità-rottura. Essa è piuttosto espressione di vita, ed è questo il senso dell'aggiornamento di Papa Roncalli. Con questo il Papa, con aggiornamenti, il Papa infatti voleva indicare disponibilità e attitudine alla ricerca di una rinnovata inculturazione della rivelazione nelle nuove culture. Non riforme disciplinari né modificazioni dottrinali, ma una inversione totale della tradizione finalizzata ad un ringiovanimento della vita cristiana e della Chiesa. Grazie. Ringraziamo il professor Lucieri della grande esposizione che ci ha fatta, che anche se ci ha trovato forse un po' stanchi perché avevamo avuto una densa relazione, ci ha dato tanti stimoli di riflessione, di confronto, per cui ci sarà certamente un animato dibattito.